You've got to give a little. Indovina chi viene a cena? Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly, che cavolo aspettiamo a mangiare? Buon pomeriggio a tutti da Valentina Furlanetto, benvenuti ancora una volta a questo appuntamento con Indovina chi viene a cena, la trasmissione che ruba il titolo a questo film degli anni 60 che avete sentito come sempre dopo la nostra sigla. I temi del film, quindi le coppie miste, i pregiudizi razziali, l'integrazione fra culture restano attuali, ma noi pensiamo che si possano superare, come a tavola superiamo certe volte le nostre avversioni e come capita ai protagonisti di questa pellicola. Parliamo quindi di cucina e ricette per raccontare i nuovi italiani, quest'Italia che cambia. Indovinate chi viene a cena a Radio 24 oggi pomeriggio, questa sera cuciniamo con lui. Io do il benvenuto a Luigi Sun. Buona giornata a tutti. Prima di parlare con lei e di chiederle che cosa ci cucina, tra l'altro Luigi Sun, già lo anticipo, si occupa proprio di cibo, io vi faccio una domanda. Come si chiama secondo voi l'imprenditore tipo milanese? Secondo la Camera di Commercio, vi do già la risposta, il nome più gettonato è Mohamed. Per la prima volta un nome straniero è quello più diffuso tra i piccoli imprenditori milanesi. Questo risulta alla Camera di Commercio di Milano. La stupisce Luigi Sun? Ma io pensavo fosse uno degli Tu, che è un cognome molto famoso a Milano, e pensavo fossero gli U prima dei Mohamed, però ben venga, ecco che... Quindi gli U sono una famiglia cinese, mi pare di capire. Ma diciamo sì, è una famiglia cinese in Cina, a differenza dell'Italia, la Cina ha un centinaio di cognomi e milioni di nomi, mentre noi abbiamo un milione di cognomi e i nomi saranno forse un centinaio. Gli U sono non una famiglia ma un gruppo di cinesi che portano questo cognome. Quindi lei si aspettava comunque un imprenditore straniero, perché lo ricordo, stavo parlando della Camera Commercio di Milano che analizza gli imprenditori di Milano a prescindere, non gli stranieri. Quindi lei si aspettava comunque uno straniero, non un brambilla. Vista l'evoluzione in questi ultimi anni, sicuramente uno straniero, senza sorprese. Ecco, allora vi do qualche dato, poi iniziamo a cucinare, ci mettiamo ai fornelli. Dicevamo Mohamed ha scalzato Giuseppe, Mario, Brambilla, 1600 imprese, il 3% del totale, con un aumento del 475 imprese in un anno, spesso ditte individuali, contro 1383 imprese italiane. Quindi le imprese italiane sono diminuite del 55%. Nella classifica spunta anche Ahmed al 15° posto, non dà conto questa classifica, almeno in questo riepilogativo che io ho di imprenditori cinesi, ma come lei diceva la comunità cinese è molto importante a Milano, soprattutto nell'imprenditoria, nella ristorazione. Forse la vera notizia è che non ce ne siamo insomma accorti, signor Sun. Sì, forse questo sì è passato inosservato, però oggi le attività che stanno comunque aprendo sono nella maggioranza, visto anche i dati che lei ha appena comunicato, in mano a, hanno le famiglie, diciamo, i nuovi italiani, ecco. E lei è un imprenditore d'eccellenza, la intervistiamo anche per questo, perché ha vinto il MoneyGram Award per l'occupazione. Il MoneyGram Award è un premio che viene dato ogni anno agli imprenditori ormai italiani ma di origine straniera, secondo diverse categorie: l'innovazione e appunto anche l'occupazione. È stato innanzitutto, immagino, molto soddisfatto di questa sua vittoria. Lei impiega una cinquantina di persone. Sì, io ho una cinquantina di persone che lavorano con me, già, diciamo, forse il più anziano dei 28 anni di questa azienda ne ha passati 23, ecco. Per cui ed è una situazione che comunque sta migliorando, anche perché abbiamo bisogno di fare altre assunzioni sicuramente nel 2014. La sua Union Trade quanto ha fatturato l'anno scorso? L'anno scorso siete stata circa 42 milioni. E come vanno le cose? Bene? Ma diciamo, l'anno scorso è stato un anno un po' transitorio, quest'anno abbiamo ripreso la nostra, diciamo, crescita sicuramente a singola cifra, però è comunque positivo in un momento dove c'è una grossa flessione, ecco, negli altri settori. La sua attività è un'attività di prodotti alimentari, no? E tra l'altro, se ho capito bene, lei ha rilevato un'azienda italiana e poi l'ha trasformata. Ma diciamo, nell'85 io ho proseguito l'attività che questa azienda italiana faceva, e negli anni è stata migliorata. Da quello che era un settore prettamente asiatico, ci siamo un po'... siamo cresciuti anche in tutte le altre aree, per cui oggi importiamo sia dal sud-est asiatico, ma andiamo a finire anche all'estremo, per cui da Sud America, dagli Stati Uniti, Canada, ecco, importiamo prodotti alimentari da tutto il mondo. E come ha partecipato questo premio per il MoneyGram Award, il premio per l'imprenditoria straniera in Italia? Come le è capitato di partecipare? Ma credo che un po' anche i miei collaboratori che hanno partecipato ad un evento organizzato da loro mi hanno candidato, ecco, e questo è stato un po' una sorpresa anche per me, e ovviamente poi in base a vari criteri, ecco, penso che sia stato questo un po' il motivo. Torniamo a parlare con Luigi Sun, imprenditore di origine cinese, vincitore del MoneyGram Award per l'occupazione di quest'anno. Luigi Sun, che cosa ci cucina? Che cosa prepariamo per questa sera? Io personalmente non cucino, però ho portato una ricetta che mia moglie ogni tanto, quando ha tempo, anche perché lei lavora anche lei, prepara spesso, e a noi, a me e mio figlio, siamo molto... E cos'è? È un osso buco, che è un, diciamo, un piatto prettamente italiano. Osso buco qui a Milano, poi si fa l'osso buco con il risotto alla milanese. Noi facciamo un osso buco cucinato alla cinese con una serie di ingredienti diversi che mangiamo insieme alla ciotola di riso bianco tradizionale cinese. Ah, interessante, quindi proprio un mix della sua identità, Milano e la Cina. E usate, immagino, delle spezie per cucinare, sì, questo osso buco, ad esempio? Ma allora, più che spezie, allora, facendo una piccola lista di ingredienti, noi usiamo invece sempre carote, cipolle, usiamo il daikon, che è una rapa bianca, che è, diciamo, il secondo ingrediente principale del nostro piatto. Usiamo che si trova in Italia? Sì, assolutamente, è quella rapa bianca che usano moltissimo nella ristorazione giapponese per fare il fondo a quello che è il sashimi, il sushi, ecco. Sì. Viene tagliato. Noi lo tagliamo a pezzettini più grossi, così che viene cucinato insieme. E anche lo zenzero, diceva, grattugiato, immagino. Ma no, zenzero più che grattugiato, tagliato a fettine molto sottili, mm-hmm. Anice stellato, la citronella, che in inglese si chiama lemongrass. Mm-hmm. Noi usiamo un nostro vino di riso che si chiama Shaoxing, che è un vino di riso glutinoso che importiamo noi dalla Cina, e poi una serie di ingredienti che possono essere il sale, il pepe, queste cose qua. E quindi insomma è proprio questo Sobuco alla cinese, racconta un po' la sua vita. Lei è nato in Cina negli anni 50, se non sbaglio, ed è in Italia dagli anni 60. Ci racconta un po' da dove viene e quando è arrivato nel nostro paese? Allora, io provengo dalla regione dello Zhejiang. Tutti i cinesi qui sono stati categorizzati nati nello Zhejiang, che poi è una regione di circa 50 milioni di abitanti. Per evitare di indicare città, province, paesi. Io sono in Italia dal 61, sono nato proprio nel 61-62, adesso non ricordo esattamente, ho fatto gli studi in Italia. Quanti anni aveva? Avevo 5 anni. Ah, era molto piccolo. Sì, I genitori sono venuti per lavoro, per questioni... Nel caso della mia famiglia è stata mia mamma che è venuta prima. Mia mamma aveva i nonni materni che abitavano in Olanda, e in occasione della morte della nonna le lasciò la Cina per andare a trovare appunto i loro genitori. E in questa occasione poi ha preferito rimanere in Europa, ha scelto l'Italia per fortuna, e poi pian piano siamo arrivati tutti noi, tutto il resto della famiglia. Che, come lei ricordava, arrivate da un'area della Cina, perché la Cina è molto molto grande, da cui arriva la maggior parte dei cinesi in Italia, così? Direi che il 70-80% dei cinesi che sono oggi residenti in Italia provengono da quest'area. E cerchi di farcela così, ce la dobbiamo immaginare un po'. Lei come la descriverebbe quest'area? Un'area rurale, un'area che in qualche maniera ha delle cose in comune con l'Italia, oppure assolutamente no? Direi di sì, nel senso che parlando di clima, abbiamo un clima molto simile a questo. La regione, diciamo per esattezza, è la regione che è sotto la municipalità di Shanghai e sopra il Fujian, un'area abbastanza rurale che però negli ultimi anni è cresciuta moltissimo. La nostra città Wenzhou è diventata una delle città con una crescita economica veramente esponenziale in questi ultimi anni. Poi ovvio, con i contraddittori che si possono immaginare di un sistema che cresce troppo velocemente. Quindi lei era molto piccolo, è cresciuto in Italia, ha fatto le scuole in Italia, che diciamo è la situazione che dà un po' di più che altre l'identità della persona, non so se lei è d'accordo. Dove ha studiato? A Milano? Io ho studiato a Bologna, io sono di adozione bolognese e ho fatto le scuole, poi ovviamente ho preferito lasciarle per lavorare a metà delle scuole superiori. E si è dedicato a un'attività, quella legata ai prodotti alimentari di importazione, diciamo che è un po' tipica della comunità cinese, no? La ristorazione e l'import-export di prodotti alimentari. Beh, diciamo la ristorazione sì, l'altra forse un po' meno, ecco. Se per dire contiamo a Milano, ristoranti, chiamiamoli sia cinesi che anche ultimamente giapponesi, gestiti dai cinesi, possiamo parlare più di 500 unità. Chi fa il mio lavoro magari saremo in 3 o 4. Ecco. Torna mai in Cina? Tutti gli anni a cavallo delle due fiere principali nella regione del sud, nel Guangdong, oltre a, diciamo, a tornare magari a vedere alcuni familiari. E qual è la cosa che le manca di più? Per cosa ha nostalgia? A volte sono proprio i gusti quelli che ci legano di più al paese d'origine, ai parenti. Ma io direi forse sì, questo aspetto. Poi è ovvio che appena io poi parto dall'Italia non vedo l'ora di ritornare, ecco. Per cui è una contraddizione, nel senso che io ho famiglia e affetti che sono legati a questo paese. E ogni tanto magari io e mia moglie, che lei magari in Italia da meno tempo di me, lei preferisce mangiare cinese, io spesso preferisco mangiare italiano. E i suoi figli? Siamo di compromesso. Mio figlio è un ibrido, nel senso che lui vive a metà di noi due, però lui è nato qua, cresciuto qua, studiato qua. È italiano. Direi che tutti gli effetti italiano. Senta, prima di fare una piccola pausa e poi ci risentiamo subito dopo la viabilità, fra i prodotti cinesi di cui si parla più spesso, no? Fra noi italiani intendo, gli involtini primavera, riso cantonese, cos'è che le dà più fastidio quando lo assaggia in Italia e capisce che proprio, insomma, è un cibo molto diverso da quello, dall'originale cinese? Fastidio Non necessariamente, ecco, nel senso che spesso e volentieri fra i vari locali abbiamo chi lo fa meglio e chi lo fa peggio, ecco, per cui conoscendo un po' quello che è l'origine del prodotto, quando lo vedi fatto bene dici cavoli è buono, spesso e volentieri magari viene fatto non così bene a persone che non sono professionisti e allora è un peccato perché dici questo non è sicuramente portabandiera della cucina cinese buona. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Allora, Luigi Sun, imprenditore con cui stiamo parlando, vincitore del MoneyGram Award per l'occupazione, dicevamo il cibo cinese che si mangia in Italia è a volte anche oggetto di pregiudizio negativo, è un cibo che non sempre viene valorizzato, in realtà ha una lunga tradizione, la cucina cinese è anche una cucina anche piuttosto difficile da cucinare, ma non sempre la ristorazione offerta in Italia vi fa onore, credo che lei sia d'accordo, no? Ma diciamo che c'è stato un periodo successivo alla SARS nel quale la ristorazione cinese aveva subito un tracollo, ecco, per cui molti ristoratori cinesi avevano abbandonato la gestione del ristorante, l'avevano addirittura trasformato in un ristorante giapponese. Ultimamente c'è un ritorno anche perché la cucina cinese comunque è sempre stata ben accettata, facile da capire, facile da digerire anche, e questi sono sempre stati valori che per fortuna stanno ritornando. C'è un ritorno a locali un po' più, diciamo, più una volta erano tutti generalizzati, tutti in voltini di primavera, oggi c'è una ricerca anche in cucine regionali cinesi che pian piano stanno tornando e questo a me fa più che piacere. E tra l'altro molti cinesi offrono anche la possibilità di assaggiare il sushi, e questo quanto è credibile o in realtà bisogna guardarsi da cinesi che offrono un cibo giapponese? Non bisogna magari fidarsi di quelli a troppo buon mercato perché potrebbero nascondere delle insidie su quello che può riguardare la qualità. Certamente il cinese è un carattere che si adatta benissimo a sfruttare quelli che sono i fenomeni anche di moda, per cui va di moda il giapponese, bene o male mettiamo anche il giapponese. Ha fiuto per gli affari il cinese, sì. Esatto, io mi riferivo più a quei locali che oggi sono diventati locali di nicchia ma molto specializzati, e chi fa il cinese fa solo il cinese. E magari fa regionale, no? Perché ovviamente esatto. È un paese così grande che non ha senso parlare di cucina cinese. No, assolutamente. Parlavo qualche tempo fa con un suo collega imprenditore italiano di origine cinese, lui mi diceva in Italia c'è un pregiudizio forte verso le persone cinesi. Oggi la Cina, per quello che è riuscita a raggiungere in questi ultimi anni all'economico, ha una presenza che è diventata non più come una volta i cinesi, chissà, oggi i cinesi fanno anche, fanno parte dell'economia mondiale, per cui voglio dire, sono diventati molto importanti e bene o male questo sta portando a un livello anche generale, per cui oggi ai cinesi sono sinonimo di denaro, di persone che comunque lavorano, che acquistano attività, per cui in questo momento, voglio dire, in 50 anni di vita non mi sono mai sentito così nel senso fiero di essere cinese, mentre negli altri anni forse era meglio tenerlo un po' più nascosto. Quindi è migliorato comunque l'immagine, secondo lei, lo stereotipo, luogo comune? Sì, è migliorato moltissimo, poi ovvio che spesso e volentieri ci sono situazioni dove alcuni, magari miei connazionali, vengono coinvolti in situazioni, magari dico, di contraffazione, e per cui deve essere quello che poi va comunque ad influenzare tutto il resto, perché è buono. Abbiamo da qualche mese un ministro per l'integrazione, Cécile Kyenge, di origine congolese. Lei può immaginare come fattibile l'idea di un ministro di un governo italiano di origine cinese? Ma secondo me io non ci troverei niente di strano. Io ho conosciuto il nostro ministro a Roma durante la cerimonia di Graham ed sono stato felicissimo di aver incontrato una persona veramente eccezionale, ecco. Tra l'altro il ministro ha annunciato che sarà ospite da noi, possiamo già dirlo, prossimamente, raccontandoci una bella ricetta a base di banane, perché è una donna molto intelligente e spiritosa, e quindi l'episodio increscioso del lancio di banane lo vuole giustamente utilizzare in maniera simpatica e divertita per parlare anche in maniera divertita di integrazione. Poco fa, prima di iniziare questa puntata, io le chiedevo cosa stava facendo e lei mi diceva stavo litigando con le banche. Quindi tutti i problemi degli imprenditori italiani, né più né meno, è un problema grosso quello dell'accesso al credito? In questo momento sì, in questo momento assolutamente è un grossissimo problema che non sta sicuramente aiutando l'economia. Ecco, l'economia di questo paese purtroppo ha subito in questi ultimi anni una grossissima penalizzazione. Ovviamente le banche, che sono quelle che fanno comunque il bello e il brutto tempo, danno linee di credito magari ad aziende che non hanno bisogno e altri magari non sono così aperti, ecco, magari facendo pesare su quelli che sono i piccoli, le piccole e medie imprese, i problemi che hanno avuto con le grosse. E in questo fanno differenza gli istituti di credito nei confronti di imprenditori di origine straniera, oppure questo non conta nulla nel rapporto con le banche? Ma le banche oggi secondo me vedono i numeri dell'azienda, i bilanci, gli utili, ecco, sono forse meno, una volta c'era più un rapporto umano tra il settorista e il cliente, diciamo l'utilizzatore, oggi ci può essere qualsiasi buon rapporto, ma se i numeri aziendali non ci sono, le banche oggi sono meno propense a dare linee di credito. Beh, e questo conforta anche, insomma, perché contino i numeri e non altre situazioni. Assolutamente, assolutamente. Adesso diamo la nostra ricetta dell'ossobuco alla cinese. Ossobuco alla cinese. Ingredienti per 4 persone. 4 ossobuchi di vitello, una cipolla grande, uno spicchio di aglio, una carota, una rapa bianca, piselli, pannocchiette fresche, germogli di bambù, funghi, zenzero, 13 litri o più di latte di cocco, olio di semi di arachide o girasole o mais quanto basta, farina quanto basta, sale e pepe quanto basta. Per la marinata, il succo e la buccia grattugiata di un'arancia, il succo e la buccia grattugiata di un limone, un pezzo di zenzero fresco grosso come un dito di un bimbo o di un adulto, secondo i vostri gusti, un bastoncino di lemongrass pulito e tritato, un cucchiaino di semi di coriandolo, mezzo cucchiaino di noce moscata grattugiata, un cucchiaino di miele, 2 cucchiai di salsa di soia. Preparazione. Mescolate tutti gli ingredienti della marinata in un piatto fondo. Unite gli ossibuchi e lasciate marinare in frigorifero per un'intera notte. Scolate gli ossibuchi dalla marinata, infarinateli e poi eliminate l'eccesso di farina. Fate scaldare un po' di olio in un tegame. Fateci rosolare gli ossibuchi a fuoco vivo. Unite la cipolla, l'aglio e le altre verdure scelte, pelate e tagliate a pezzetti. Fate rosolare anche loro. Unite la marinata e mescolate. Versate il latte di cocco e fate cuocere coperto a fuoco moderato per circa 1 ora e mezza. Servite questo speciale ossobuco accompagnato da riso cotto all'orientale, ovviamente riso basmati o il profumato riso Thai, e spolverandolo con del coriandolo fresco tritato. La puntata termina qui, io ringrazio il nostro ospite, l'imprenditore Luigi Sun, per essere stato con noi. Grazie, buon appetito! Grazie a tutti e zai jian! Ringrazio anche in regia Carmelo Lauricella, mi trovate anche su Twitter, @valfurla, trovate le ricette sulla pagina del programma all'interno del sito internet di Radio 24. Tra l'altro questa è l'ultima puntata che va in onda alle 15 della prossima settimana, troverete ancora nel palinsesto di Radio 24, rimanete ad ascoltarci, indovina chi viene a cena, però si sposta in orario serale, quindi sarà un indovinate chi è venuto a cena alle 23 sabato prossimo. Buon appetito a tutti e ricordate, i gusti cambiano. You've got to give a little. That's the glory of